In diretta da Firenze, dove si svolge una manifestazione per il diritto all'abitare. Pronto, ci senti? Pronto? Pronto? Sì. Ciao, ciao, noi ti sentiamo. Ciao, sono Francesca, scusate, ma qua c'è un po' di confusione, sono in mezzo alla manifestazione. E niente, oggi abbiamo lanciato questa manifestazione a livello regionale contro la legge Saccardi e appunto in piazza c'eravamo sia noi di Firenze, il Movimento di Lotta per la Casa, tanti solidali anche da Firenze, c'erano i compagni di Pisa, i compagni di Livorno. E niente, la manifestazione è partita da piazza San Marco verso le 3:30, siamo arrivati sotto la sede della Regione Toscana e abbiamo provato a entrare dentro la regione, ma dentro la regione c'era dentro il cortile della regione c'era il cancello chiuso con dietro qualche decina di poliziotti in assetto antisommossa e Digos che presidiava il cancello e lo teneva chiuso. Anche fuori che la situazione era abbastanza militarizzata, soprattutto se si considera anche il fatto che ci troviamo in pieno centro, nel senso che c'erano una decina di camionette, veramente tanti poliziotti. E niente, quindi abbiamo provato a entrare, ma siamo stati respinti, quindi abbiamo tenuto un presidio lì sotto per qualche ora. È stata fatta la promessa sia dal PD che da Rifondazione, che sono scesi a parlare con noi, che ci avrebbero fatto entrare, perché noi ovviamente, loro volevano che noi entrassimo in delegazione e noi ovviamente volevamo entrare tutti insieme, perché crediamo che tutte le persone che si vivono sulla propria pelle l'emergenza abitativa in questo momento debbano avere il diritto di esprimersi e dire la propria su una legge così infame. E c'era stato legge che avrebbero fatto entrare e non è successo, abbiamo aspettato la scadenza che ci avevano dato e poi appunto ci hanno detto, hanno ritornato di nuovo sulla questione della delegazione, per cui noi abbiamo deciso di partire in corteo. Saremmo dovuti partire in corteo, la poliziotti stava aprendo per farci passare, ma alcuni poliziotti hanno deciso di non farci passare, per cui noi ovviamente volevamo andare, per cui c'è stata un po' di spinte, è partita una grossa carica che insomma è stata abbastanza brutta e c'è qualcuno che anche si è fatto un po' male. Ora insomma ancora dobbiamo ancora capire un po' com'è la situazione. Ora siamo in corteo, siamo ripartiti in corteo, lì decisi, stiamo andando alla stazione ad accompagnare i compagni che devono tornare nelle proprie città e niente, ancora non abbiamo avuto ovviamente il modo di fare delle valutazioni più complessive sulla giornata. Sicuramente che la Regione Toscana e il Partito Democratico ci hanno fatto vedere qual è la risposta che riservano alle persone in emergenza abitativa in questa regione, ecco. Del resto Saccardi, che dà il nome alla legge, è del Partito Democratico e questa è la legge che... Sento perché c'è l'amplificazione, puoi ripetere per favore? No, dicevo del resto Saccardi, che dà il nome alla legge, è del Partito Democratico e questa legge è, come dire, la versione regionale della Lupi. È stata l'assessore per la giunta Renzi, quando Renzi era il comune di Firenze, per cui noi la conosciamo bene da tanti anni, abbiamo avuto svariate volte in questi anni modo di scontrarci con lei, per cui nel senso non si stupisce questa cosa, non si stupisce certo l'accoglienza che ci hanno riservato, certo non, nemmeno loro ci hanno fatto una gran bella figura a militarizzare completamente il centro di Firenze e a avere questo tipo di atteggiamento nei confronti di famiglie, la composizione del corteo è la composizione di una manifestazione della lotta per la casa, ci sono decine di bambini, anziani, c'era anche l'Unione Inquilini in presidio insieme a noi, per cui insomma... Adesso la situazione si è tranquillizzata mentre appunto... Sì, si è tranquillizzata, appunto siamo in corteo, siamo arrivati ora alla stazione e... e niente, appunto accompagneremo io e i compagni che devono tornare a casa. Stiamo facendo degli interventi per spiegare alle tante persone che sono qua alla stazione di Firenze quello che è successo. Senti, noi ti ringraziamo. La lotta contro questa legge, in generale contro il piano casa di Lupi e contro il Partito Democratico, non finisce certo qua. Avremo in programma tante iniziative per le prossime settimane, sia a Firenze che a Pisa che a Livorno che nelle altre città. Ringraziamo anche i compagni che ci hanno dato solidarietà da Roma stamani con l'occupazione dell'ufficio della regione toscana, anche a Bologna il pomeriggio. Niente, insomma. Senti, ma la legge intanto la stanno votando dentro il palazzo della regione? In realtà abbiamo scoperto, cioè hanno deciso di non votarla oggi, sapendo che avremmo fatto questa manifestazione, hanno deciso di non votarla oggi, però dalle nostre fonti sappiamo che la legge è bella impacchettata e pronta per essere votata tra poche settimane, o la settimana prossima o quella dopo, perché sicuramente appunto ci rivedremo presto. E noi magari ci risentiamo in modo da fare valutazioni più ampie quando vi sarete confrontate al vostro interno, insomma, nei prossimi giorni. Certo, volentieri. E ti ringraziamo molto. Grazie a voi, buona serata. Buona lotta. Ciao, ciao. Ciao.